tutti quelli che vivono lo sport, che seguono lo sport, per tutti. Franco Arturi, vice direttore della Gazzetta dello Sport. Ti ringrazio, per radio non si vede il rossore, ma io sono un po' circonfuso. No. Saluti a tutti. Mi piace pensare a Franco Arturi come un uomo di basket prestato a una delle sedie più importanti dello sport italiano. Posso? Sì, nel senso che la mia educazione sportiva, io parlo in questo momento da questi bellissimi studi di Radio 24 che sono al centro del quartiere dove sono praticamente nato, no? E dove c'è il Palalido, dove c'è lo stadio di San Siro, dove c'è l'ippodromo, e questi tre impianti mi hanno forgiato, perché le mie domeniche di ragazzo, poco più che bambino, spesso cominciavano dentro il Palalido quando le porte erano aperte perché gli inservienti facevano le pulizie. Mi infiltravo, mi nascondevo e vedevo di tutto, i giovanili, poi le ragazze, poi il basket, poi mi trasferivo allo stadio. Quindi il basket ovviamente ha occupato buona parte, anche per vicende familiari, affettività eccetera, della mia esperienza sportiva, e tuttora è un mio interesse molto forte. Franco, cosa ha portato Dan Peterson alla pallacanestro italiana? Well, ha portato molta simpatia, e una grande dote di Peterson è la stessa che aveva Einstein. I grandi sono grandi divulgatori, di solito non fanno pesare la loro scienza, anzi la sanno comunicare. Tuttora io penso che Peterson sia il più grande cronista e telecronista di pallacanestro, che conosce perfettamente quali sono i movimenti del piede perno, però non ci massacra con finzioni, con scenografie, con ostentazioni, ma ci comunica esattamente quello che deve comunicarci e ci fa amare questo sport. Quindi io spero che continui a lungo, perché ogni sua telecronaca, ogni suo intervento è una persona guadagnata alla causa. 800 24 00 24, il numero verde per parlare con noi. Cos Peterson, buongiorno. Buongiorno Franco, grazie per il commento. E Arturi ha detto una volta, molti anni fa, il più grande complimento gentile che ha avuto, dice: ogni telecronista di Peterson è come fare un mini viaggio negli Stati Uniti. E veramente il mio scopo era proprio quello di portare il telespettatore lì negli Stati Uniti a bordo campo con me. Quindi ciao Franco e grazie. Okay? Ciao. Poi io però sono andato spesso negli Stati Uniti, però non li ho ritrovate quelle cose. Allora ho pensato: te le sei inventate, però te le sei inventate bene. Scherzo, ovviamente, è proprio vero quello che dici, o quello che ho detto, insomma. Senti Cosmo, ma è vero, ho letto da qualche parte che Franco Arturi ti faceva fare brutta figura chiedendoti pronostici, è vero? Oh, guarda, la storia con me e Arturi lì alla Gazzetta, cioè, è buffissimo, perché nel 91 mi hanno cominciato a chiedere di fare i pronostici per i playoff. Poi, prima volta, sono andato lì in redazione, fotografo, la fotografia sulla Gazzetta, con tutta la griglia dei playoff, e l'anno che Caserta ha vinto lo scudetto, avevo pronosticato Milano, Caserta fuori semifinale, allora 92, mi chiedo 93, poi continuo a sbagliare 94, e finalmente un giorno chiamo Franco e dico: Franco, ma perché chiedete sempre a me? Avete una redazione piena di ragazzi lì che sono bravi, avete, non so, Anesi, Chiavotti, e come mai? Poi mi sono lamentato di questa cosa qui, e lui mi ascolta, finalmente mi dice: Dan, sai perché lo chiediamo a te? E dico: dimmi Franco. Dice: sei l'unico così stupido a accettare di farlo. Quindi ho detto: va benissimo, lo faccio per sempre allora. Quindi, perché voleva dirmi lui che nessun altro voleva farlo, perché si può fare solamente brutte figure, e se indovino uno era tutto scontato. E certo, pronostico di Peterson sbagliato, comunque Franco fa notizia. Sì, anche perché, come dice Dan, cioè, il pronostico per definizione, come sosteneva anche il grande Gianni Brera, lo sbaglia soltanto chi ha il coraggio di farlo. Del resto lo sport è bello per questo. Se fosse aritmetica, e se tutti sapessero che Cleveland vince per forza a Toronto, perché andare a vedere? Perché soffrire? Perché emozionarsi? Anche le questioni tecniche sono molto discutibili, sono confrontabili con eventi, destini. Però è bello farlo, perché, come si dice, è una base di discussione, no? Certo. Da lì si parte e ci si addentra nell'ignoto. Base di discussione, io vorrei chiederti questo, coach. Parliamo di Milano, dell'Eurolega di Milano. Milano 4 punti in due partite, probabilmente nessuno se lo sarebbe aspettato. E poi è interessante come anche Franco sa benissimo le sorte delle cose. Cioè, Joby Thomas ha un mini infortunio, per forza deve mettere Hollis Price in campo. Il ragazzo, non so, il primo quarto ha fatto, non so, 17-18 punti, artefice della vittoria, assolutamente lui. Quindi in questa storia qui c'è sempre una cosa strana, ma questo non cambia niente la sostanza. Milano ha sorpreso tutti battendo per due punti Olympiacos e due punti Procom, e quindi tanti complimenti a loro. Poi la strada è lunga ancora, ma se loro riescono a fare o primo o secondo posto in questo girone, andare ai quarti finali, la fase playoff, guarda, è un successo senza misura per me. Veramente saranno andati oltre le loro possibilità tecniche. Vocazione europea per Milano, anche se la partita di ieri sera è stata francamente da bollino rosso, perché è una cosa brutta. Ma voi non avete visto quello giovedì precedente con l'Olimpico, siete vietato ai minori di 18 anni, c'è proprio motivi. Ne abbiamo parlato di Polifemo Giannakis la settimana scorsa. Piuttosto, volevo chiedere a Franco Arturi come valuta questa prima stagione di Armani, proprietario del basket milanese. Come la valuti? Qual è la tua valutazione su questo primo approccio di Armani? Ma io direi una sperimentazione. Convincente? Ma la sperimentazione di fatto è un avvio di navigazione. Quindi voglio dire, mettere un piedino nell'acqua per vedere quanto è fredda. Non credo che, cioè, siamo appunto all'avvio della navigazione, no? Gli approdi sono ancora lontani, così come gli assetti. Io dico che è fondamentale che abbia cominciato, che lo stia facendo, e poi cammino facendo troverà e troveranno le giuste misure per trasformare il grande nome, la passione anche, in risultati e in qualcosa di convincente che spesso, come hai giustamente sottolineato, non si vede. Penso che si vedrà. Certamente è una squadra ancora imperfetta, no? Lo dimostra la sua classifica, certo, in campionato, ma credo che lo sappiano tutti, è un cantiere aperto e penso che prima o poi si chiuderà, nel senso che dagli errori si impareranno le lezioni conseguenti. Ieri sera ho visto una cosa strana: Milano con 5 americani a un certo punto in campo. Mi ha fatto impressione vedere 5 americani in campo con la maglietta bianca e rossa dell'Armani Jeans tutti insieme, e ho detto: che pianeta è questo, Franco? Ecco, questo usciamo dall'argomento Armani, no? Certo. Perché questo è un argomento di carattere, certo, generale, per non dar corpo ad equivoci nei confronti di chi ci ascolta. Io ricordo spesso qualcosa che Dan Peterson proprio ripete e scrive, giustamente a mio avviso, che il campionato italiano non deve essere il campionato che si gioca in Italia, ma è il campionato prevalentemente degli italiani. Questa è la mia convinzione ferma, ma questo conterebbe molto poco. È anche quella di Peterson, e già questo conta qualcosa di più. A mio avviso è anche la convinzione della grande maggioranza degli appassionati di questo sport in Italia, che però non vengono ascoltati. C'è un distacco progressivo dall'emotività, dall'affettività della gente, c'è un ripiegarsi nei castelletti che sono le singole realtà dei club, e la perdita di una visione d'insieme del bene comune, che è quello dell'espansione di un movimento sportivo che, ricordo, non è nelle tradizioni sportive italiane e che quindi va radicato con un lavoro che credo sia terminato, quando invece era ancora in corso, all'inizio degli anni Ottanta, con effetti a mio avviso rovinosi di arretramento generale sotto il profilo del pubblico, dell'interesse generale e magari anche della tecnica. Cosa, vuoi aggiungere qualcosa? Ovviamente io ho fatto la mia carriera quando c'erano due stranieri per squadra e tanti italiani. Le club andavano bene in Eurolega, la squadra nazionale andava bene alle Olimpiadi, alle altre cose, il campionato europeo. Quindi io penso che sia possibile fare le due cose. Secondando quello che ha detto Franco Arturi, il problema oggi con gli americani che si cambiano squadra un giorno sì, un giorno no, è che loro non si affezionano della società, del pubblico, della situazione, e viceversa per forza anche il pubblico fa fatica, ma questo qui perché mi devo affezionare, identificare con lui, domani può anche andare via. Invece la gente come D'Antoni a Milano per tanti anni, la gente sembrava di avere una famiglia loro in campo quando andava a vedere la partita. Bisogna trovare un equilibrio tra le due cose, perché è chiaro che i proprietari devono battere nero, devono offrire spettacolo, devono fare pubblico, sponsor, soci, eccetera, ma ci deve essere una strada giusta a trovare, ne sono convinto di questo. Sì, in effetti Franco Arturi ha detto una cosa importantissima, e cioè è il movimento nell'insieme, perché se guardiamo le singole realtà, a Siena sono contentissimi di questa squadra. Certo. Allora io però Siena è l'isola, no? Certo. Se posso rivelare una piccola cosa di redazione, ho visto al di là dei vetri che rinchiudono questo bello studio passare Andrea Zorzi, sì, un grande della pallavolo. Ecco, quello che sta facendo ancora quello sport è quello di sentirsi movimento e di procedere secondo quello che è il senso della collettività del movimento sportivo. Il basket ha cessato, il basket italiano ha cessato da tempo di esserlo, ed è diventato piuttosto una somma di egoismi particolari, ciascuno dei quali coincidenti con una singola realtà di club. Non esiste più un discorso che parta dalla frase noi del basket. Ci siamo noi di Milano, noi di Treviso, noi di Roma, noi delle due Bologne, eccetera, eccetera. Io invece ritengo che questo sport sia più che mai bisognoso di questo tipo di approccio collettivo. Quello che sta avvenendo, per esempio, nei confronti dell'interesse della NBA è rivelatore. Cioè, la gente nel nostro paese, appassionati del basket, si appassiona all'NBA per il motivo per il quale si distaccano un pochettino emotivamente dal basket italiano, cioè perché in America c'è una maggiore riconoscibilità di atleti che rimangono nella stessa franchigia per anni, di colori sociali, uh-huh, e dunque io posso innamorarmi di più dei Celtics o di Los Angeles o adesso di Cleveland piuttosto che delle mie realtà sotto casa, che cambiano, come ha detto il nostro conduttore, vorticosamente da un giorno all'altro addirittura. Questo io penso che sia altamente negativo. Sentiamo il primo ascoltatore di oggi, Gianluca da Treviso. Gianluca, buongiorno. Sì, buongiorno. Prego. Buongiorno. Niente, io prima di tutto volevo fare i miei più cari ringraziamenti a Dan Peterson, perché è stata la persona che mi ha fatto innamorare del basket, e penso che come me tutta la mia generazione. Vorrei porre l'accento su una cosa: la presenza del basket in televisione non esiste, o esiste in orari proibitivi e in tempi proibitivi. Io mi sono innamorato del basket guardando le mitiche partite di Dan Peterson, di vari Magic Johnson, Jabbar, Larry Bird. Gioco ancora a basket e mi ritrovo purtroppo solo con gente della mia età a giocare a basket, e non ci sono giovani, è una cosa molto triste. Penso che un reinserimento del basket nei programmi televisivi possa sicuramente far riavvicinare i giovani soprattutto al basket. Sì, questo è un altro grosso nodo. Coach. Stavo per rispondere che quando io ho cominciato le telecroniche NBA nel 80-81 è stato l'anno, c'era la Rai con il mitico Aldo Giordani con una partita della Serie A ogni settimana, c'era anche Telemonte Carlo che aveva secondi diritti con una parte, tutti in diretto, ok? Siamo noi su PIN e poi su Canale 5 e poi su Italia 1, alle NCA su Canale 5, tutte le reti locali, cioè proprio tutti volevano vedere il basket, tutti hanno visto il basket in televisione, e questo ha aiutato molto il reclutamento dei giovani, la gente che si è appassionata proprio al basket. È vero questo, che adesso è tutto codificato, non lo vede nessuno, e quindi qualcuno mi ha detto che c'è nel basket femminile, per esempio, lì vicino a Napoli, una società ha visto una ragazza con potenziale, andava a reclutare la ragazza a casa, a parlare con la mamma, e dice: siamo la squadra di pallacanestro. E la mamma ha detto: cos'è la pallacanestro? Cioè, 30 anni fa, quando abbiamo cominciato, questo non succedeva, perché tutti sapevano, perché vedevano il basket in televisione. Cioè, addirittura una madre di un ragazzo di grande potenziale ha detto: cos'è la pallacanestro? Cos'è questa cosa? Cos'è questa bestia strana? Coach, grazie. Ci sentiamo grazie venerdì. Grazie amici, ciao Francone, ok? Ciao ragazzi, alla prossima. Ciao amici sportivi. Grazie coach. Palla spicchi. Eccoci tornati. Allora Franco, basket e televisione. Se lo spettatore ha lanciato la palla, Dan Peterson l'ha battuta come si deve. Se mi promettete che non chiamerete nessuna autoambulanza, vi dico subito che questo argomento non dovrebbe nemmeno esistere. Cioè, il basket è diventato grande in Italia senza che le televisioni si accorgessero di lui. Io sono del tutto indifferente a quella che è la politica delle televisioni nei confronti del basket. Se il basket è attrattivo e appeal, le televisioni verranno. Quella che poi è la dinamica di costi e di strategie per quanto riguarda il criptato e il chiaro è un altro discorso ancora. Il basket deve riempire i palazzi, il basket deve riempire le palestre di ragazzi che lo praticano, dopodiché le televisioni verranno, si metteranno in fila e in coda, ma non è questo l'obiettivo numero uno. Se qualcuno pensa che si esista soltanto se si è in TV, sbaglia clamorosamente, e credo che questo distragga da molte cose. In realtà è la sostanza del movimento che conta. La sostanza del movimento significa praticanti nelle palestre e pubblico nei campionati maggiori. Queste due cose preesistono alla TV e non sono un effetto della TV. Franco, in questi giorni si vanno a comporre gli stati generali della pallacanestro, di quelli che a chi piace dirlo sarà la nuova pallacanestro italiana. Ci crediamo davvero che questa possa essere o potrà essere la nuova pallacanestro italiana? Intanto molti auguri a Meneghin, che domani sarà intronato come presidente federale. È raro che un atleta di questo passato assurga il ruolo di primo dirigente del suo sport. Dunque Franco, eravamo rimasti prima di questa notizia agli auguri a Meneghin, l'uomo giusto? Non lo so, lo chiederei volentieri a lui, penso di sì, nel senso che lui ha accettato. Non lo so, nel senso che il suo profilo personale, professionale, per ora non si è cimentato in questo tipo di compiti. A proposito dell'episodio che veniva raccontato poco fa da Dan Peterson, mi riaggancio. Uno dei grandi delitti della nostra federazione nei direi decenni passati è stato quello di deprimere il movimento femminile, che è buona parte, o meglio era buona parte del movimento del basket, e che è lasciato in uno stato di abbandono assolutamente indecoroso, con un fatalismo non degno di questa causa. Per quanto riguarda i compiti più generali di Meneghin, devo dire che se i grandi proprietari faranno un passo indietro e concederanno alla federazione una politica completamente diversa dalla deregulation attuale, allora credo che Meneghin abbia buone possibilità di operare e di incidere sulla situazione. Se questo non avverrà, non ricorderemo questa presidenza se non con la riverenza che dobbiamo convintamente al nome, ma non per questioni politiche sportive in senso stretto. Io non ho grande ottimismo sul fatto che i club faranno dei passi indietro. Ho più fiducia invece nella capacità di Meneghin, se e quando sarà il caso, di eventualmente imporre certe idee, certe decisioni, ma non perché Meneghin, ma per il bene del movimento, come dicevi tu prima, e non dei particolarismi che lo compongono. Andiamo sugli ascoltatori. Fabio da Brescia, Federico, provincia di Pavia, Fabio Pesaro. Fabio da Brescia, buongiorno. Sì, buongiorno a voi, grazie. Allora, io da bresciano ho una tremenda nostalgia degli anni d'oro del basket Brescia, l'AB, dove abbiamo visto passare grandissimi campioni, per ultimo Mike Mitchell, ma ne abbiamo avuti tanti, tanti davvero. Volevo sapere se secondo voi c'è ancora la possibilità di vedere una squadra di Brescia che ci faccia vedere ancora del bel basket al massimo livello, oppure se è solo un sogno? E in più volevo sapere, secondo voi, che possibilità può avere il Maccabi in Eurolega? Grazie mille. A lei, Fabio, sul basket bresciano bisognerebbe chiederlo più che altro alle autorità e agli stessi appassionati di Brescia, perché mi risulta che non ci sia fermento da questo punto di vista. È un peccato, è stata una piazza storica della pallacanestro italiana, è sparita e rimane lì nel limbo. C'è stato qualche tentativo, ma mi risulta non andato a buon fine. No, infatti, per quanto riguarda invece la questione Maccabi, il Maccabi ha giocato in Eurolega, ha subito una sconfitta abbastanza pesante dal Barcellona di Basile, ha preso una ventina di punti, ventello se non ricordo male, è 1-1, però siamo nei quattro gruppi, ci sono Panathinaikos, Cesca e Real Madrid a punteggio pieno, e poi con l'Armani nel suo gruppo, quindi il Maccabi è in buona compagnia con una partita vinta e una persa, per esempio nel suo girone col Barcellona, ma anche con l'Olympiacos negli altri giorni. Secondo me adesso è ancora un po' la stessa Montepaschi, è ancora un po' presto per decidere quali potranno essere le possibilità reali di questa squadra andando avanti. Franco, recupero delle piazze storiche della pallacanestro italiana, è tornata Brindisi, è tornata Venezia, è importante secondo me questo, perché la pallacanestro ha queste culle che non bisogna abbandonare, non bisogna lasciare vuote. Tutto quello che è un rivitalizzare delle buone tradizioni è positivo. A mio avviso uno dei consigli che si potrebbe dare, con molto rispetto a Meneghin, è quello di far parlare la gente, che non credo sia stata mai presa in considerazione come elemento da cui far partire, far nascere un dibattito. Un'indagine di mercato seria, che chieda alle persone: vi piace una squadra con 8, 9, 10, 11, 12 americani fra veri, presunti e finti? Vi piace questo tipo di basket? Quale tipo di basket vi piace? Quanti stranieri vorreste? Quanto contranazionale? Ecco, sembrerebbero domande da farsi in modo scontato se c'è un aspetto del basket che è anche marketing, perché bisogna portare le persone nei palazzetti che spendono molti soldi con i loro abbonamenti, con i loro biglietti, però queste domande non sono mai state fatte. Noi, con molta modestia, senza pretesa di scientificità, nel nostro giornale abbiamo aperto un canale di sondaggio sul nostro sito internet www.gazzetta.it, dove naturalmente, parlando di rete, il pubblico ha una fascia di età piuttosto bassa mediamente. Beh, la sorpresa è stata che noi veterani, ecco, per usare un termine che non ci avvilisca troppo, ricordiamo con grande malinconia quegli anni, ma i ragazzi di oggi vorrebbero quel tipo di basket. Questa è stata una relativa sorpresa, perché intimamente ne ero convinto, comunque una conferma. Io mi auguro che Meneghin e soci lo chiedano con maggiore scientificità, ne prendano atto e dirigano la barca verso quell'approdo, altrimenti continueremo con lo pseudo basket di oggi, con gli americani che vengono e che vanno, con grandi pick and roll pronti via, e uno contro cinque, e vediamo, speriamo di vincere. Come si diceva prima, playmaker e pivot sono stati ammazzati da questa pallacanestro. Ma sull'argomento che sta trattando ora il direttore Franco Arturi, poi avremo dopo una pausa che ci aspetta Matteo Boniccioli, e sarà un confronto, ve lo dico subito, interessante. Federico, provincia di Pavia, poi Fabio da Pesaro, prima di fermarci. Federico, buongiorno. Buongiorno. Volevo aggiungere soltanto che è vero che la RAI, il mio commento, non ha assolutamente aiutato il boom della pallacanestro. Fra le emittenti televisive a cui ci si collegava ai tempi c'era anche la mitica Telecapodistria. Certo. Ricordo benissimo un bellissimo incontro Stati Uniti-Unione Sovietica giocato in America con Bill Walton e Ernie Di Gregorio. E quello che la mia domanda è: oggi non ci sono più tanti giovani che giocano a basket, che vogliono imparare a giocare a basket, anche perché noi ci si trova all'oratorio. Il basket bello lo si andava a vedere magari al cinema parrocchiale, quando c'era il giornalista Gandolfi che portava i filmati dell'NBA, sì, e i cinema erano pieni. Penso che sia anche una questione di numeri di giovani che si avvicinano alla pallacanestro. Questo è il mio commento. Grazie Federico, sentiamo anche Fabio, poi rispondiamo, facciamo una risposta cumulativa. Fabio, da Pesaro, buongiorno. Sì, buongiorno, niente, volevo fare in parte l'intervento dello spettatore di prima comunque coincide col mio, nel senso che io mi ricordo, sono del 70, quindi ho 38 anni, mi ricordo che quando eravamo piccoli, quindi 7-8 anni, comunque Tele Capodistria, noi la domenica mattina la partita era fissa, voglio dire, quindi era una diretta che si guardava tutte le domeniche mattina. Poi noi a Pesaro, che comunque è una città che si vive di basket, certo, di conseguenza può essere anche, come dire, quasi scontato per noi. Però ecco, oltre al Rai che comunque trasmetteva la partita almeno in diretta il sabato, c'era anche la domenica mattina la partita di Tele Capodistria del campionato slavo. Ecco, tutto qua. Certo. Sì, poi che campionato era quello? Sono un po' troppo, Esatto. Guarda, mi hai rubato la battuta. Perché sei un giornalista attento, lo vedete, lo notate, quanti discorsi di basket cominciano con mi ricordo. E non di gente anziana, di uomini giovani. Questo dovrebbe accendere una lucina rossa come quella che vedo nella nostra regia, tante lucine rosse. Molti discorsi di basket cominciano mi ricordo, cioè mi ricordo qualcosa che non ritrovo oggi, purtroppo. Qui parlavamo di televisione, ma in realtà ci sono tante altre cose di cui ci ricordiamo e che non ritroviamo più. Volevo dire una parola per quanto riguarda i numeri. I numeri non sono in crisi oggettivamente, cioè il movimento dei praticanti del basket, se ci limitiamo alla parte maschile, è molto interessante, direi in salute. È crollato quello femminile per una colpevole non gestione della federazione. Il problema è che questi ragazzi arrivino nella loro prima fascia a meritare il campionato di A1, certo, maschile, e che non si ritrovino invece a giocare nelle leghe 3. Palla spicchi. Il bello è che Franco Arturi è rimasto naturalmente qui con noi. Il bello è che abbiamo visto Andrea Zozzi di là dal vetro, come avete sentito, l'abbiamo subito reclutato alla causa. Grazie Andrea, ciao. Una specie di intruso, quindi. No, ma che intruso. Andrea Zozzi, si invece di sport. Una delle grandi sciocchezze che si dicono in questo mondo è quello che riguarda la concorrenzialità. Io mi confronto spesso con un quasi amico, posso definirlo così, che è il presidente della Pallavolo Prandi, che invece ha delle vedute molto ampie, molto giuste, secondo me non c'è nessuna concorrenzialità, c'è una invece concorrenza per portare intanto un contributo di cultura sportiva. Poi sono due discipline affini che dovrebbero marciare molto spesso insieme e che si guardano con simpatia e le cui inimicizie sono inventate ad arte da persone che hanno interesse a farlo. Invece con Prandi spesso ci dicevamo: ma io vorrei fare delle cose comuni fra basket e pallacanestro. Questo qui sono discorsi di dirigenti illuminati. Parole sante, una specie di multisala. Uno va, poi può scegliere che tipo di film o di disciplina decide di vedere. Nessuna concorrenza. No, Andrea, abbiamo anche un ospite in linea importante con cui la discussione si farà interessante. Il direttore prima diceva: allora, la pallavolo ragiona come movimento, noi della pallavolo, e si va tutti nella stessa direzione. I problemi si cerca di risolverli come movimento. La pallacanestro è un arcipelago di isole, ognuna delle quali pensa a se stessa. Si tratta di dimensioni anche. La pallavolo a volte è costretta fortunatamente a pensare come unico movimento, perché non esistono ancora spazi così grandi da dividersi. Il basket è arrivato a un certo livello nel quale gli interessi sono anche individuali. Entrambi commettono un errore drammatico nella pallavolo, perché a volte si nascondono problemi che vanno affrontati, il basket perché spreca delle energie, ma sono due discipline che potrebbero fare molto meglio. L'ospite che abbiamo in linea è Matteo Bonicioli, coach della Virtus Bologna. Matteo, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. E qui mi aspetto un bel confronto tra te, soprattutto, e il direttore Franco Arturi sulla questione. Saluto, che saluto, lo leggo sempre con attenzione. Grazie, a mia volta ti seguo con molta attenzione. Trieste e Bonicioli mi stanno nel cuore. Grazie. Coach, il punto è questo. Io, insomma, tu hai una posizione sul discorso italiani, stranieri, miscela del nostro campionato che non funziona, che mi intriga molto e sulla quale sono grosso modo d'accordo. Cioè Matteo Bonicioli dice: gli italiani sono troppo protetti, via le barriere del protezionismo, vale il libero mercato, e io qui sono d'accordo, il direttore so già di no. Su un punto mi devi ancora convincere, cioè alla gente interessa solo vincere. Qui torniamo al discorso che si faceva prima delle isole. Cioè, se interessa solo vincere all'interno della tua piccola repubblica, ma come movimento perdi tanto. Ma se mi permettete, io farei mezzo passo indietro senza voler essere noioso. in una società che è sempre più complessa e dove le differenze tra ricchi e poveri sono sempre più ampie e sempre più penalizzanti nei confronti dei poveri rispetto ai ricchi, io credo, e questo lo dico spesso ai miei giocatori, alcuni dei quali nella realtà nella quale lavoro sono molto pagati, che lo sport resta una delle poche diciamo così isole felici nelle quali, quando ci si mette segnatamente nel basket in mutande e canottiera, quello che tu hai fatto o che hai guadagnato fino a quel momento, quello che tu farai da domani in poi non conta niente, conta solo quello che tu sei capace di dimostrare sul campo in termini di entusiasmo, di energia, di ardore agonistico, di capacità tecniche, di capacità tattiche di interpretare la partita. E io in questo senso ho sempre pensato, forse sbagliando, che la meritocrazia sia il sistema più democratico che esiste. A dire chi nella scuola studia di più e merita e capisce di più quello che studia, indipendentemente dal fatto che sia figlio di un ricco o di un povero, è giusto che prevalga. Io quando dico che i migliori devono giocare, devono avere delle chance, e citando un ministro in questo momento spesso all'onore della cronaca, cioè il ministro Brunetta, del quale io non condivido molte cose, ma quando parla di fannulloni, noi sappiamo che c'è. Allora, io credo che i fannulloni vadano, diciamo così, messi in secondo piano rispetto a chi ha voglia ed energia. Il nostro è un campionato nel quale l'ultimo exploit è quello del giovane Martinoni, di Treviso, imprestato a Varese, che è stato messo in campo da un allenatore che ha sempre lavorato molto con i giovani e che sta restituendo quello che il suo allenatore gli ha dato in termini di fiducia ed entusiasmo. Ci sono tanti giovani italiani, Rullo, Renzi, Crosariol, per non parlare di quelli bravissimi. Sì, come Matteo, resti convinto che italiano o americano nessuna differenza? Ma io credo che soprattutto nello sport l'unica differenza che vale sia quella tra bravo e meno bravo. Dico con grande serenità, perché poi dopo so che vengo, come purtroppo spesso mi capita, attaccato anche violentemente, ma io credo che quando il discrimine non è più la capacità, il merito, la disponibilità a sacrificarsi, perché lo sport è sacrificio, non è lusso, macchine, voglio dire, importanti, voli privati, è fatica. Chi è disponibile a farla è giusto che prevalga, e ci sono tanti giocatori italiani che lo stanno facendo, ma non credo sia giusto che in uno sport che è anche spettacolo, business, entertainment, come dicono gli americani, debba avere posizioni di vantaggio chi è nato in questo paese. Io voglio sentire questo punto Franco Arturi, e voglio sentire Andrea Zorzi. Franco. Ma intanto io penso che la specie protetta nel basket italiano sia la specie straniera, verso la quale il sistema orienta 60%, 70%, 80% delle risorse. Questa è la realtà, non l'opposto. Per un motivo dialettico e polemico si vuole sostenere che chi desidera valorizzare l'elemento autoctono intende fare del protezionismo. È l'opposto. Chi per scopi non loschi, legittimissimi, ma io dico parziali, desidera aprire il mercato, privilegia di fatto, no, l'elemento straniero. Poi il discorso sulla meritocrazia è non solo inattaccabile, ma solo un pazzo direbbe qualche cosa di diverso. Benissimo, scegliamo fra i giocatori italiani, sono 80-100.000, coloro i quali si uniformano a quel tipo di valori. Allora il discorso non è quanto è nello sport di business, marketing, spettacolo, lo stato puro, ammesso che siamo d'accordo su che cosa significa la parola spettacolo, oppure è anche, come c'è scritto nello statuto della federazione, diffusione dello sport sul territorio, nella cultura. Io dico che deve essere un equilibrio fra queste due cose, e che nella fase storica attuale ci siamo spostati molto sotto l'aspetto business spettacolo e molto poco sotto l'aspetto dello sport italiano, a meno che, ripeto, siamo del tutto disinteressati a quanti cestisti ci siano in questo paese fra 10 o 20 anni. Se non ci interessa per nulla, l'attuale sistema è perfetto. Andrea, cosa ne pensi? che una volta difeso naturalmente il principio di parità che è sacrosanto, il problema è che è difficile applicarlo, perché poi alla fine se si vuole vincere, questo poi è un gap non indifferente, fai le scelte che sono più comode, quelle che ti portano a vincere prima, e non sempre sono lungimiranti. In questo senso riprendo un'intervista fatta a questi microfoni da Arrigoni, credo, circa un mese fa, in cui toccava un tema a me molto caro. Ci sono due motivi per fare grandi sacrifici, e qui lo sport, sacrifici sport è fondamentale: o perché hai più fame e quindi ha a che fare con i paesi meno ricchi, o l'altro, quello di riuscire a mettere culturalmente l'idea ai giovani che non è solo un gioco, è anche un lavoro. E quindi il lavoro significa responsabilità. Non si va in palestra perché ne hai voglia, perché è divertente, va in palestra perché comunque è una tua possibilità, una tua opportunità. Arrigoni diceva: in un momento di crisi come questo, perché non prendere in considerazione che teoricamente anche la pallacanestro o la pallavolo possono diventare delle forme di lavoro, senza prendere le parti negative del professionismo? Quindi questi due aspetti sono secondo me decisivi. Una delle obiezioni che si solleva normalmente quando si fa questo discorso sul protezionismo o meno è il discorso economico. La prima obiezione è che le società fanno è che a parità di livello un giocatore italiano costa molto di più rispetto a un giocatore comunitario o straniero, che dir si voglia. Matteo, volevo sentire la tua opinione in questo discorso. Avevi qualcosa da aggiungere? Sì, no, io volevo dire una cosa. Condivido assolutamente la seconda parte di quello che dice il direttore Arturi. Meno la prima, anzitutto per un discorso di costi, cioè lui dice in questo momento i privilegiati sono gli stranieri. Io porto in questo senso un'esperienza diretta, che è quella di general manager di Avellino, società e allenatore di Avellino, con la quale l'anno scorso ci siamo tolti delle grandi soddisfazioni. Alla cifra alla quale l'anno scorso noi come società riuscimmo a firmare due giocatori importantissimi come Marcus Green e Devin Smith, la gran parte dei giocatori italiani che avevamo contattato ci hanno sorriso in faccia, perché poi vedete, adesso io non voglio sempre essere polemico, ma noi non dobbiamo mai dimenticarci, secondo me, il paese nel quale viviamo e la realtà culturale nella quale viviamo. Allora, il nostro è un paese, come ho già avuto occasione di dire sulle vostre frequenze qualche tempo fa, nelle quali le regole giuste sono tante. La cosa che fra virgolette ci mette in difficoltà è l'interpretazione della regola. Perché io vi giro la domanda: in Italia, così come in molti altri paesi europei nei quali il mercato è più o meno aperto, ci sono francesi, tedeschi, giocatori della ex Jugoslavia, giocatori dell'est europeo, che mettono, diciamo così, uso un termine molto brutto, insomma, che mettono in discussione la loro carriera andando all'estero per vedere di migliorare la propria condizione, per vedere di, cioè, accettano le regole del mercato in tutti i sensi, sia in entrata che in uscita. Se noi andiamo a cercare quanti giocatori italiani di livello giocano all'estero, io credo che troviamo tre. Pecile, non vorrei sbagliare, Pecile, Basile, Arconato. Tutti gli altri restano qua. Allora io dico, tu reputi di essere stato ingiustamente penalizzato da una regola che privilegia lo straniero rispetto all'italiano? Fai come ho avuto occasione di fare anch'io, prendi la tua valigetta, vai in Belgio e dimostra di essere più bravo. Su questo io sono d'accordo. E una volta che hai dimostrato di essere più bravo in un paese che ti dà le chance che il tuo paese non ti ha dato, in quanto bravo e in quanto titolare di un passaporto italiano, avrai la fila di società fuori dalla porta che vorranno ingaggiarti. Hai altri 5 minuti, Matteo? Sì, permettetemi di dirvi ancora una cosa. Io oggi ho visto di essere stato attaccato da Beppe Cassì, presidente dell'Associazione dei Giocatori. Ancora? In questo contesto io poi dico un'altra cosa, dove subentra l'italianità. A fronte di una situazione già discutibile, ma sulla quale comunque per tutelare l'interesse del prodotto nazionale si può intervenire con delle regole, quando qualcuno riuscirà a farmi capire il motivo per il quale, secondo le regole della pallacanestro italiana, se io vado a lavorare 4-5 anni all'estero e i miei due bambini diventano Bargnani e Bellinelli, quando rientrano vengono considerati europei, cioè non italiani di formazione, quando qualcuno riuscirà a farmi capire questo, io vivrò una vita più serena. Palla spicchi. Eccoci tornati, abbiamo sempre Franco Arturi, Andrea Zorzi, guest star, Matteo Boniciolli in linea, e volevo sentire l'opinione del direttore su quanto ha detto Matteo Boniciolli. Italiani che giocano all'estero di livello ce ne sono tre, gli altri non sono a prezzi di mercato, dice Boniciolli. È colpa vostra. Vostra intesa come vostra dirigenti, in parte come allenatori, colpa vostra perché glieli date quei soldi. Quando ti hanno sorriso, magari in modo anche beffardo, con un'offerta, tu risorridi educatamente e ne prendi un altro, molto più scarso di lui. Certo devi avere il coraggio di farlo, devi avere il coraggio di avere uno di quei cosiddetti gentleman agreement per cui non si possono e non si devono superare determinate soglie, ma se la corsa è comunque a vincere e al benessere del proprio club, e lì torniamo alla grande problematica di fondo, allora capisco che si faccia la corsa a dare 500.000 euro al giocatore italiano che per il mercato ne varrebbe a stento la metà o anche meno della metà o anche un terzo. Se ragioniamo in termini di collettivo, di comunità, gli si dice no, bene, lo juniores avrà 50.000 euro e sarà contento. Chi ha il coraggio di fare questo? Nessuno. Perché? Perché conta esclusivamente la vita di club nell'ottica del non vedere il bene comune. Secondo me avere giocatori italiani importanti o anche, ripeto, non importanti, perché secondo me il livello qualitativo del campionato italiano è una chimera, cioè è inafferrabile, indefinibile, è un bene primario a cui tendere in modo assoluto, la bussola sulla base della quale si debbono conformare le regole. Così la vedo io. Altrimenti nel giro di 20 anni avremo una sorta di campionato multietnico staccato dalla realtà del costume sportivo nazionale che è quello praticato, e se, ripeto, se questa prospettiva ci va bene, tutto quello che accade oggi è coerente, giusto? La replica del COS che poi lasciamo andare a lavorare. Due cose molto, molto semplici. Rispetto al discorso sull'investimento sugli italiani, secondo me in un paese nel quale il risultato non è tutto, è più di tutto, e su questo né il direttore Arturi né io né nessuno ce lo possiamo nascondere, né tantomeno far finta di vivere nel paese delle favole, perché questo è un paese nel quale, se mi permettete, non voglio allargarmi perché non è mio compito, ma la progettualità manca in molti settori più determinanti dello sport, ed è chiaro che il ragionamento qui e ora è un ragionamento che investe varie parti della società civile, non soltanto della pallacanestro. Se mi si dovesse chiedere in questo momento qual è, a mio modestissima opinione, l'unico modo per ragionare, come suggeriva il dottor Arturi, in termini di interesse comune, è il blocco delle retrocessioni. Perché se tu a una società dici, allora stai attento, per 3 anni tu non rischi la retrocessione dalla 2 alla B1 o dalla 2 dalla 1 alla 2, dalla 2, perché hai detto al giocatore non ti do 500, ti do 50, perché il direttore sa meglio di me che nel momento in cui io perdo 5 partite di fila, cioè i tifosi che mi sputano, mi portano a casa col cellulare della polizia, perdo il posto di lavoro, io ho fatto la poesia e arriva un altro al posto mio. Quindi questa è una cosa che non dobbiamo nasconderci, perché allora se vogliamo essere progettuali, dobbiamo essere progettuali tutti e dire, allora, per 3 anni si bloccano le retrocessioni, il che significa che una società di grandissimo livello come la Benetton, che ha secondo me in questo momento i migliori giovani che ci sono in Italia, può dire, sta a sentire, per 3 anni noi investiamo, come fanno nelle NBA, no? Che prendono le scelte ragazzini, ma perché hanno una progettualità di lungo periodo. La vita delle società sportive italiane e la vita degli allenatori e la vita dei dirigenti è vincolata al risultato di domani, che è l'unica cosa che conta. E sì, su questo non possiamo. Era così anche negli anni 70-80. No, sì, sì, era così. No, no, no. Cioè la vero, cultura sportiva non si è deteriorata, no, era identica. No, ma si è deteriorata, lei lo sa meglio di me, si è deteriorata la cultura. L'Italia degli anni 70 non era l'Italia di adesso. Era un'Italia che guardava in avanti e dove, per quanto ci fossero partiti, ideologie completamente diverse l'una dalle altre, comunque si dialogava. L'Italia di adesso è un'Italia nella quale non esiste dialogo e nella quale l'interlocutore, nel momento in cui non dice quello che dici tu, diventa nel 99% dei casi un nemico. Questa è una cosa, è la differenza sostanziale tra la prima repubblica di cui io sono un nonostante non abbia, non sia vecchissimo, ma sono la ricordo con nostalgia rispetto a questo spettacolo indecoroso che vediamo quotidianamente. Sì, stiamo andando molto lontano. No, ecco. No, ma c'entra tu. No, ma sì, c'entra, no, mi rendo conto. Ecco, io personalmente non mi rassegno. Nemmeno io. Ecco, ma allora, quindi, secondo me, io trovo sempre orrendi, anzi mi fanno veramente venire i brividi i discorsi dell'età dell'oro. L'età dell'oro non sono mai esistite, salvo in un campo, questo. E lo dicono tutti, lo dicono i ragazzini di 15 anni, di 18, di 20, di 32, di 40, di 50, lo dicono tutti. Il vostro pubblico non ama il vostro prodotto perché vuole identificarsi con giocatori italiani. Questa cosa non potete disconoscerla. Ne avete, scusi, chiedo scusa se io no, non è che la voglio inserirla nella mia requisitoria nel momento negativo, era soltanto un modo retorico e dialettico di dirlo. Voi avete talmente paura di sentire la risposta che non chiedete nemmeno alla gente che basket volete. Io vi esorto a farla questa domanda. Il fatto di essere cacciati via se la squadra andava male era così nel 66, succedeva 42 anni fa. Ecco, non c'è nulla di nuovo sotto il sole. La nostra, come paese, in cultura purtroppo sportiva, è un dato comune e costante. Come non credo all'età dell'oro e all'evoluzionismo, non credo nemmeno che noi si sia in corsa, in rotta verso il nulla, non credo che siamo molto peggio di allora. Chiedete alla gente qual è il modello di basket che vogliono. Direttore, un'ultima cosa, lei che ha molta più memoria storica di me rispetto allo sport, sa meglio di me quanto l'epopea di Venezia sia stata costruita attorno a Torino Zorzi, che ha allenato a Venezia per non so quanti anni, che l'epopea di Milano è nata attorno a Cesare Rubini ed è continuata attorno ad Alessandro Gamba, che l'epopea di Cantù è nata attorno ad Arnaldo Taurisano, cioè voglio dire che l'epopea di Brindisi è nata attorno al grande Pentassuglia, che la pallacanestro romana ha seguito Giancarlo Asteo per un periodo di tempo lunghissimo. Ci sono delle differenze tra la pallacanestro attuale e quella di una volta. Così come, anche rispetto, sono d'accordo con lei che non esista metà dell'oro, però anche nel momento in cui la nostra nazionale, in un mondo meno globalizzato di questo, dove anche in realtà come di paesi che probabilmente non avevano un grande basket un tempo, adesso ce l'hanno, quando noi avevamo la grandi nazionali di Iellini, Marzorati, Osso, la Bisson e Flaborea, a dietro questi non ce n'erano altri 10 o altri 20 o altri 30. L'Italia è sempre stata in grado storicamente di produrre 10, 15, 20 grandi giocatori di una stessa generazione. Non è che dietro Dino Meneghin ce ne fossero altri due che restavano fuori dalla nazionale. Era la punta dell'iceberg, ma allora, sotto non c'erano giocatori di pari livello. Siamo in chiusura, mi dispiace moltissimo perché mi dispiace di non rimanere con voi più a lungo. No, piace anche a me perché dobbiamo chiudere il programma, sennò rimanevamo qua. Beh, grazie comunque. Vi ringrazio molto. Grazie Cosimo, buon lavoro. Allora, sorprendete perché molte domande sono applicabili anche alla pallavolo, quindi siamo veramente cugini molto vicini ed è interessante perché potremmo porre le stesse domande del vice direttore anche ai pallavolisti e ai manager. Io vi ringrazio davvero perché oggi ho ascoltato il programma con molta passione. Grazie direttore, grazie di essere stato con noi. Grazie a tutti voi. Andrea, tu sei l'ospite fisso, domani ci sentiamo. Certamente. Domani ci sentiamo con Andrea Zorzi, grazie a Flavio Suardi. Ciao, grazie. Gigi Borghi in redazione, Filippo Aureggi in regia, buon pomeriggio a tutti. We'll be right back.